buona serata a tutti voi dalla voce di Marco Gravelli, siete su Rock FM. Inizia come ogni venerdì l'appuntamento live di Hard and Heavy. Live perché andiamo a prendere in esame, in considerazione, andiamo a proporvi degli album o dei CD dal vivo che hanno fatto la storia del mondo hard rock in genere, del mondo heavy metal, speed, thrash, a secondo naturalmente delle band che andiamo a proporvi. Come sempre il tutto vi viene offerto da Mariposa Dischi Corso Lodi, numero 1 a Milano. Sito internet www.mariposadischi.it, nonché il saluto e ringraziamento al nostro Simone che ha preparato le note biografiche delle due band di questa sera. Quali sono? Beh, sono due album molto belli, due band molto molto famose, una inglese e l'altra tedesca. Per quanto riguarda il campo dell'hard rock, iniziamo con UFO, l'album si intitola Strangers in the Night, secondo album live della band, considerato anche uno dei migliori album dal vivo in assoluto della storia dell'hard rock. Uscito nel 79, registrato un anno prima, però nel 78, grazie ad una tournée in America, concerti registrati a Chicago, Youngstown, Cleveland, Louisville. È stato poi 20 anni dopo ristampato, rimasterizzato nel 1999 con due tracce in più. La formazione comprende Phil Moog alla voce, Michael Schenker alla chitarra che poco prima della pubblicazione di quest'album abbandona la band, Paul Raymond alle tastiere, Pete Way al basso e Andy Parker alla batteria. Ascolterete tante belle canzoni e beh, non ci stanno tutte perché in circa 28 minuti purtroppo alcune le dobbiamo lasciar fuori, anzi la maggior parte, comunque alcune ve le proporremo. L'album, lo ripeto, è un doppio vinile. Iniziamo con le note di questa Out in the Street. Over my head. Street per UFO, primo brano che abbiamo proposto nello spazio live di questo venerdì sera per questa storica famosa hard rock band inglese, precisamente di Londra, che hanno influenzato numerose formazioni del panorama hard rock e metal. Nascono nel 1969, come spesso accade, il nome attuale non è il primo che hanno utilizzato. Pensate, si chiamavano Hocus Pocus, non Hocus Focus come il pezzo famoso dei Focus, ma Hocus Pocus con la P. Il tutto fu creato dal cantante Phil Moog, dal bassista Pete Way e dal batterista Andy Parker. All'inizio non avevano il tastierista, quindi. Presto il nome però fu cambiato nel celebre UFO, ispirato al nome del locale dove furono notati da Noel Moore, tramite il quale ottengono il primo contratto discografico. L'esordio arriva un anno dopo, quindi. 1970 viene pubblicato l'album UFO One, mentre con il secondo lavoro Flying, One Hour Space Rock del 72, che ottengono una certa notorietà in Giappone. Infatti è proprio in Giappone che decidono di registrare il loro primo album live. Sempre nel 72 il chitarrista Mick Bolton, prima chitarrista della band, lascia il gruppo. Il suo sostituto ufficiale sarà il grande Michael Schenker, che avevano conosciuto durante un tour insieme agli Scorpions. Andiamo a proporre un altro classico motivo della band, dove ancora una volta c'è energia ma c'è anche molta melodia. Il brano si intitola Only You Can Rock Me, da Strangers in the Night, UFO. Only you can. can rock me, rock me. Grazie a UFO con quest'altra bellissima canzone. Abbiamo detto che Michael Schenker entra a far parte della band nel 1972. Con il suo ingresso il sound diventa decisamente più ardeggiante. Nel 74 pubblicano il terzo album Fenomeno, ma è con il successivo Force It, quello che se non sbaglio vedeva la scimmietta in copertina, arrivano i primi risultati commerciali in America, dove arrivano al 71esimo posto delle charts. Dopo un altro album entra in formazione il tastierista Paul Reynolds e finalmente nel 76 arriva il vero e proprio successo mondiale con l'album Lights Out, numero 23 in America, 54 in UK. Con il successivo Obsession la notorietà aumenta in Inghilterra e visto il momento favorevole decidono di pubblicare questo doppio album dal vivo, Strangers in the Night, che riscosse un notevole successo per essere un album live e addirittura doppio. Prima della sua pubblicazione però Michael Schenker lascia il gruppo a causa di attriti con il cantante Phil Moog ed in seguito formerà la sua band Michael Schenker Group. Poi, come sentirete, entrerà e uscirà un'altra marea di volte all'interno della lineup. Abbiamo citato il loro grande successo commerciale Lights Out, andiamo ad ascoltare il brano che dava il titolo a quell'album, Lights Out. Michael Schenker alla chitarra e si sente, bravo, bravo Michael, anche se abbiamo detto esce dalla band. Il suo posto viene preso da Paul Chapman, con il quale registrano No Place to Run nel 1980, che a livello di vendite fu in linea con i precedenti album, tanto da raggiungere l'undicesima posizione in Inghilterra. Dopo il tour anche il tastierista Paul Raymond lascia la band. Dapprima il suo posto fu preso dall'ex tastierista degli Uriah Heep, ma presto entrò in formazione Neil Carter, ex Wild Horses. Dopo l'album dell'82 Mechanics, buon ottavo posto in UK, lo storico bassista Pete Way, anche lui, decide di lasciare il gruppo. E dopo il successivo Making Contact del 1983, la band si scioglie ufficialmente. Dopo, però, come vi avevo anticipato, comincia una serie di riunioni e scioglimenti. In effetti siamo nell'85 quando il cantante Phil Moog riforma la band con una nuovissima lineup e con Reynolds nuovamente alle tastiere. Pubblicano un album e un EP e nell'88 la band si scioglie. Ritorniamo alla musica, andiamo ad ascoltare forse il loro più classico motivo, una delle mie canzoni preferite della loro storia musicale, brano dal titolo Doctor Doctor. Doctor Doctor Please, siamo al 1992, c'è la seconda reunion della band. Phil Moog insieme allo storico bassista Pete Way riforma la formazione, pubblicano un album. Nel 93 si ha la vera e propria reunion perché ritorna per la prima volta in line-up Michael Schenker alla chitarra. Il risultato è l'album Walk on Water del 95. Nuove tensioni interne però alla band e nuovo scioglimento. Passano alcuni anni e arriviamo al 2000. Altra reunion con Phil Moog, Pete Way, Schenker ed un nuovo batterista. Pubblicano il doppio CD Covenant, seguito anche da un altro album, Shark. A quel punto Michael Schenker lascia di nuovo il gruppo. Al suo posto entra Vinnie Moore, con il quale pubblicano due album in studio. L'ultimo è uscito lo scorso anno, si intitola The Monkey Puzzle. La formazione di oggi, quindi, degli UFO, è la stessa che ha suonato in questo Strangers in the Night, tranne la chitarra. Al posto di Michael Schenker c'è Vinnie Moore. Ultimo pezzo per concludere la prima parte di Arden Devi Live di questa sera, da Strangers in the Night, doppio album dal vivo del 79. Andiamo ad ascoltare le note di questa canzone, Too Hot to Handle, e poi torneremo con gli Accept. sempre su Rock FM, sempre con Arden Devi, con la voce di Marco Gravelli, con il nostro sponsor Mariposa Dischi e con voi all'ascolto. Buona serata e ben ritrovati insieme. Seconda parte di Arden Devi, entriamo nella parte live dedicata al mondo heavy metal dopo l'ottimo lavoro propostovi poc'anzi della formazione degli UFO. Andiamo a Stayin' Alive, il primo doppio album live degli Accept, questa storica band di heavy metal, speed metal in alcune canzoni, tedesca. Per essere sinceri, prima di questo doppio live uscito nel 1990, è stato pubblicato nel 1985, 5 anni prima, un EP dal vivo con 6 tracce, ma questo è proprio il vero e proprio album da concerto, vero e proprio perché è un doppio vinile. È stato registrato ad Osaka in Giappone nel 1985. La formazione dell'epoca era composta da, partiamo dalla batteria, Stefan Kaufmann, basso Peter Balz, due chitarre Jörg Fischer e Wolf Hoffmann e naturalmente alla voce Udo Dirk Schneider. La formazione è quella degli Accept, il pezzo che andiamo a proporre si intitola Breaker. Sound è quello appunto degli Accept, belli tosti, belli forti. L'album è stato registrato, lo ricordo, dal vivo a Osaka in Giappone 1985. Questa era Breaker, title track dell'album in studio del 1981 ed è uno dei brani che caratterizzano questo doppio Stayin' Alive. La band, forse non tutti sanno, che nasce addirittura nel 1968. La città tedesca di provenienza del gruppo è Solingen e il gruppo nacque con il nome di Band X. Poi, 3 anni dopo, lo cambiarono, ma non incisero nulla. Lo cambiarono nel 1971 in Essept. Il fondatore è stato proprio lui, Udo Dirk Schneider, vocalist della band. La prima line-up stabile arriva però addirittura nel 76 e dopo diverse esibizioni dal vivo ottengono un contratto con la Brian Records, che ne pubblicherà i primi 4 album. Il debutto arriva nel 79 con l'omonimo titolo, nome della band, e gli permise di emergere subito, diciamo, dall'underground nazionale. Segue il cambio di batterista con l'importante ingresso di Stefan Kaufmann, con il quale incidono il loro 2nd album, intitolato I'm a Rebel, uscito nel 1980, grazie al quale riescono ad entrare nelle classifiche tedesche, oltre che a partecipare a diverse trasmissioni televisive. Altro brano must della band è quello che vado a proporvi. Si intitola Fast as a Shark, la cui versione in studio si trova nel 4º album, Restless and Wild, del 1982. As a Shark per la formazione degli Essept. Abbiamo detto che questo pezzo si trova sull'album Restless and Wild, un album importante della band, 1982. State ascoltando comunque i brani estratti da questo live registrato ad Osaka, Giappone, del 1985, uscito 5 anni dopo. Staying Alive è il titolo dell'album. Ritorniamo alla loro storia e grazie al successo del successivo album Breaker del 1981 che la band riesce a suonare di supporto agli inglesi Judas Priest, seguito subito da un altro album classico, appunto Restless and Wild. Il primo è vero successo vasto, ampio, la band lo ottiene con il quinto album, Balls to the Wall, del 1983, che arriva al numero 59 in Germania, 79 in America, decimo posto in Svezia, e tour di supporto a band quali Motley Crue, Kiss, Ozzy Osbourne, oltre ad una importante partecipazione al Monsters of Rock del 1984. Ritorniamo ad un altro brano che dava il titolo a questo lavoro, 1985 la data di pubblicazione. Il brano si intitola Metal Art. Metal Heart, titolo del brano, titolo dell'album, uscito nel 1985, album che funziona molto molto molto bene. Arriva al numero 2 in Finlandia, 4 in Svezia, 13 in Germania, 50, queste sono le posizioni, quindi in Inghilterra. Però nel 1987 la band decide di sciogliersi a causa del trasferimento in America del chitarrista e del bassista, oltre che soprattutto della loro manager Gabby Hawk, che gran merito ebbe per la loro ascesa nel panorama metal e che in seguito si sposerà con il chitarrista del gruppo Wolf Hoffman. A quel punto Udo comincia ad intraprendere una carriera solista con la sua band che porta praticamente il suo nome, Udo, insieme al fedele batterista Kaufman, che però negli Udo suona la chitarra. E vabbè, bravo lui, saper suonare sia chitarra che batteria molto bene. Andiamo ad ascoltare un altro estratto, il brano che andiamo a proporre si intitola Love Child. Ricordo che il lavoro in questione è Stayin' Alive, primo e vero proprio album, addirittura doppio, registrato nel loro tour. Erano 15 date in Giappone, scelsero questa di Osaka e siamo nel 1985, anche se l'album uscito per Epic, questa è l'etichetta, arriva nel 5 anni dopo, cioè nel 1990. Il brano ve l'ho annunciato, si intitola appunto Love Child. A love child, running wild, a love child. note di Love Child per la formazione degli Asset che vi stiamo proponendo nella seconda parte di Hard and Heavy questa sera per questo venerdì su Rock FM con lo spazio Hard and Heavy Live. Prima parte l'abbiamo dedicata a UFO, questa seconda agli Asset. Gli Asset si riuniscono una prima volta nel 1987 con un nuovo cantante che si chiama David Reese, con il quale pubblicano l'album Hit the Heat, per poi sciogliersi nuovamente. La seconda reunion avvenne nel 1990 con il rientro di Udo alla voce ed in 6 anni pubblicheranno 3 album. L'ultimo è stato Predator del 1996. Sempre in quell'anno si sono nuovamente sciolti. L'ultima apparizione live è avvenuta però nel 2005, presenti anche al Gods of Metal di Bologna. Mentre Udo, insieme a Kaufman, continua nella sua band, cioè gli Udo, con i quali quest'anno sono usciti con un nuovo album dal titolo Mastercutor, e Udo l'abbiamo anche in quell'occasione ospitato nei nostri studi. Siamo in chiusura, vi lascio con l'ultimo brano, un classico estratto da Restless and Wild dell'82, Princess of the Town. Vi lascio sulle note di questa canzone, ringrazio il nostro autore Simone, ringrazio naturalmente voi, nonché lo sponsor Mariposa Dischi, vi auguro uno stupendo weekend, ci risentiamo lunedì su Rock FM con Hard and Heavy dalle 20 alle 21. Da Marco Gravelli è tutto, ciao ciao.